684. Sformato di Savoiardi con lo Zabaione. Savoiardi grammi 100, uva Malaga grammi 70, detta Sultanina grammi 50, cedro candito grammi 30, marsala quanto basta. All'uva Malaga togliete i semi, il cedro candito tagliatelo a pezzettini. Prendete uno stampo col buco in mezzo ed ungetelo col burro d'accio, poi intingete leggermente e solo alla superficie i savoiardi nella marsala, e con questi riempite lo stampo intramezzandoli a suoli con le uve e il candito. Fate una crema con latte decilitri 2, uova intere numero 2, zucchero grammi 50, odore di vaniglia. Così cruda versatela nello stampo sopra i savoiardi. Cuocetelo a bagnomaria, sformatelo caldo e prima di mandarlo in tavola riempite traboccante il buco con uno zabaione che lo investa tutto. Composto di uova intere numero 2, marsala decilitri 1,5, zucchero grammi 50 e il composto dello zabaione, montatelo con la frusta in una bacinella sopra al fuoco. Alle uve potete sostituire frutte giulebbate, oppure un misto delle une e delle altre, come pure un misto di cedro e di arancio candito. Può bastare per 6 persone. È un dolce che piace.